finalmente, dopo tanto dolore, tanto naufragare, finalmente un po' di sole, dopo tante bufere, ora puoi volare, lasciati accarezzare, dalle stelle abbracciare. Finalmente avevi ragione, la tua anima da tigre ti ha salvata dalle tempeste, cielo e mirra, una danza celeste, tu scavatrice di laghi e di fiumi, tutto ciò che illumina il mondo, fai brillare anche i sassi il profondo, ti ha reso più forte, più bella di dentro. Ogni tuo respiro è un sentiero che porta al mare, ed è bello con te andare a cavallo di un gozzo, sognare, i piedi nell'acqua ascoltare, i suoni dei pesci colorare, il verde dei prati arancione, il nostro arcobaleno un milione di baci, sfiorare le labbra dei tramonti, lune di sabbia, coralli di sandali dorati fanno eco alle tue splendide luci, anche gli uccelli si fermano a vedere quanta grazia il cielo ti ha dato, quanta pace volge il tuo viso, ora che il peggio è finito, scappato. Finalmente avevi ragione, la tua anima da tigre ti ha salvata dalle tempeste, cielo e mirra, una danza celeste, tu scavatrici di laghi e di fiumi, tutto ciò che illumina il mondo, fai brillare anche i sassi il profondo, ti ha reso più forte, più bella di dentro. Finalmente avevi ragione, la tua anima da tigre ti ha salvata dalle tempeste, cielo e mirra, una danza celeste, tu scavatrice di laghi e di fiumi, tutto ciò che illumina il mondo, fai brillare anche i sassi, il profondo ti ha reso più forte, più bella di dentro.